dalla fondazione di una filosofia della prassi ad opera di Marx verso la metà dell'Ottocento, a una serie di altre rivoluzioni in campi apparentemente diversissimi, che sono linguistica, Saussure, psicologia, Freud e Lacan, e che nel secondo Novecento, nel pensiero francese, in alcuni pensieri francesi, si uniscono. Diciamo, la galassia del post-strutturalismo francese, Baudrillard, Deleuze, Foucault, per dire i nomi principali, partono tutti da una o più di questi filoni: la filosofia della prassi di Marx, la rivoluzione della linguistica strutturale di Saussure, la rivoluzione nella psicologia e la nascita dell'inconscio, Freud e Lacan, trascureremo Jung, e mi spiace per tutti gli indiani perché è inutile. Che è un pasticcione capace più carino, cioè, più universalista di tutti, perché poi non si può fare tutto. E magicamente troveremo nella seconda metà del secolo scorso, diciamo negli anni 70, 80, 90, una serie di esperienze anche pratiche, politiche e intellettuali che si nutrono di una convergenza molto strana, molto conflittuale, ma convergenza tra questi tre grandi filoni: analisi classica della società, Marx, analisi della lingua, Saussure e strutturalismo, analisi della psiche, Freud. Mm-hmm. E poi si scoprirà col femminismo che la divisione tra filosofia e prassi è ideologica. E che il femminismo, il femminismo è probabilmente di tutta questa storia uno dei momenti più fecondi, più diciamo rivoluzionari e più stranianti dal punto di vista teorico, ma anche più interessanti dal punto di vista delle pratiche nuove che ha messo in campo. Un altro filone, di questo filone qua, secondo me dovrebbe occuparsi prevalentemente. Vabbè, se parlo di Marx delle parti generiche. L'altro filone di cui mi candiderei ad occuparmi io invece è un filone apparentemente più terra terra, cioè sì, è più terra terra. Sì e no, è la diciamo ruota intorno ai concetti fondamentali dell'operaismo, che è qualcosa che apparentemente esula da tutto quest'altro filone, perché sembra tutto e diciamo interno al primo di questi, come dire, percorsi, cioè a quello della analisi sociale, della politica della prassi, diciamo al Marx. In breve, l'operaismo diciamo consiste in un azzeramento dei marxismi tendenziale. Quindi in una critica radicale a tutte le scuole che su Marx hanno scritto, ad un ritorno a Marx, ad un tentativo di analisi reale di quello che c'era nella società, di come stava cambiando la società negli anni, su questa base alla fondazione di alcune esperienze politiche originali, che non sono tutte quelle tutte quelle che sono nate dal 68 in Italia e in Europa, quindi che non sono i gruppuscoli, non sono i piccoli gruppi politici che sono stati il vecchio di questa cosa, cioè la lotta continua, compresa la lotta continua, in Italia, diciamo, dalla lotta continua al manifesto, eccetera, eccetera. In parte queste cose hanno assunto la forma di un gruppo politico, potere operaio, per pochissimi anni, poi si sono chiamate autonomia operaia, ma rappresentano l'esperienza e la teoria più radicale all'interno dei movimenti di classe che nascevano dalla contrapposizione di classe dell'Europa di quegli anni, in particolare in Italia, perché l'Italia è stata la società in cui tutte queste cose si sono espresse con maggiore, non con maggiore chiarezza, con maggiore confusione forse, ma con maggiore forza. E quindi per tutta una fase queste due esperienze si sono sviluppate nel migliore dei casi parallelamente, nel peggiore dei casi conflittualmente. Diciamo, l'episodio che ai miei occhi rappresenta la forma più alta di conflitto tra queste due cose è il momento in cui i gruppi più, diciamo, radicali dell'autonomia nel convegno di Bologna del 77 al Palasport durante un'assemblea, i gruppi più, diciamo, radicali, compresi alcuni gruppi che avevano già fatto la scelta della lotta armata come prima linea, che era uno dei pochi gruppi che operava contemporaneamente nella clandestinità e, diciamo, all'aperto nelle assemblee. Insomma, questo insieme di gruppi scende dagli strani alti del Palasport di Bologna e picchia materialmente le femministe che stavano parlando in quel momento. Questo è lo secondo momento in cui si vede più di tutti come queste due storie sembrassero inconciliabili. Ma in quanto loro si sentissero minacciati. Minacciati, tutto quello che vuoi, però diciamo non voglio fare, però, come dire, sembrano dimostrare l'incompatibilità di queste due vie. Una serie di esperienze, però, di cui Franco Berardi è attualmente in vita e come dire, politicamente attivo, l'esponente più importante in Italia, lavoravano però, anche in maniera inconsapevole spesso, per tessere invece un ponte fra queste due vie, diciamo, diverse. E Franco era nella posizione migliore per farlo, perché era stato membro di Potere Operaio sino dall'inizio, ne era uscito anche prima di altri, cacciato prima di altri, esatto. Ed era quello che aveva cominciato a introdurre una serie di pratiche tradizionalmente chiamate artistiche e guardate col più grande sospetto dal resto del movimento dentro le cose. Per cui gli anni 80 e 90 e gli anni 0 ora, insomma, è circa 30 anni che questa commistione tra le due diverse storie è incarnata da Franco Berardi. La prima fase è incarnata da Franco Berardi, la seconda fase è incarnata da una serie di esperienze di vario tipo, di cui voi siete l'ultima, però voi siete un pezzo di questo. Autarch sta, senza saperlo, dentro a questo tentativo di ricostruire una, diciamo, teoria che marxianamente sia anche pratica, ma che superi non solo i marxismi ma anche i limiti di Marx, il tutto grazie al fatto che negli anni 80 il mutamento radicale e epocale del capitalismo, che va sotto il nome di post-fordismo, ha alterato totalmente le condizioni della lotta, della dinamica sociale rispetto a quella precedente e della lotta politica. Allora, io credo che, se non ho capito male, questo ci vuole almeno 4-5 volte in cui... questo è il programma generale. Allora, io ripeto, secondo me, io affiderei a te, in due o tre incontri, di sviscerare questo lato della storia. Partiamo da Marx, basta. Sì, certo, cominci da Marx. Però tu fai il Marx teorico, ok? Tu fai il Marx teorico, sì, poi fai gli strutturalismi, linguistica. Interviene anche tu nel Marx teorico. Oh, che palla! Linguistica e, insomma, semiologia, psicanalisi, l'inconscio, eccetera, eccetera, e cominci a far vedere quali sono stati i primi frutti della ibridazione. La svolta di Baudrillard, il terzo libro di Baudrillard, l'economia politica del segno, che però viene nella prima parte viene riassunto nello scambio simbolico della morte, è uno dei punti fondamentali di questo, diciamo, snodo, perché qui Baudrillard dimostra in qualche modo che la legge del, diciamo, che la critica alla legge del valore di Marx e il nuovo intreccio, come dire, l'analisi semiotica, insomma, possono essere applicate al capitalismo. Cioè è l'atto di nascita di quello che infatti alcuni, non a caso per esempio Berardi, hanno chiamato semiocapitalismo, che oggi è un termine un po', diciamo, desueto. Oppure materialismo, cioè produzione materiale. Per altre vie, l'analisi dei problemi del potere nella saga capitalistica di Foucault è un altro dei modi di calcolare questa cosa. È solo per segnalare. Ma non faremo magari Foucault, vedrà, però dico. Diciamo però che cosa sono. Sono Baudrillard, Foucault, Deleuze. L'altro è l'analisi della, diciamo, schizofrenia, della molecolarità sociale e della dinamica del desiderio che Deleuze e Guattari portano avanti. Freud, Lacan, cioè Lacan quindi contro Saussure. Perché è la rilettura semiotica di Lacan. Lucy Rigaret e... E poi quello che si chiama il pensiero della differenza, cioè il tentativo di costruire una filosofia della pratica della liberazione contro la prospettiva emancipatoria dei femminismi o dei movimenti femminili classici, per esempio quelli del PC. Questo secondo me è, se è chiaro, è il percorso di questa cosa. Secondo me Loretta dovrebbe fare almeno due incontri, perché ci metterà almeno due volte per fare questa cosa qua. E io altri due, Freud, e poi... in breve, cosa, cioè, più Marx che trovo. Ma poi comunque secondo me già oggi... Va bene, cioè, non lo so, però... A parte che mi sento in imbarazzo con te, ma... posso proporre una cosa? Un caffè?